50 domande su Gesù. Chi è stata Maria Maddalena? Come per molti altri personaggi, i dati che i Vangeli ci offrono su Maria Maddalena sono pochi. Ciò perché agli evangelisti interessava parlare soprattutto di Gesù, per cui non si soffermarono sugli altri personaggi e probabilmente anche perché erano ben noti ai primi discepoli destinatari di quegli scritti. Luca ci informa che tra le donne che seguivano Gesù e lo assistevano con i loro beni c'era Maria Maddalena, cioè una donna chiamata Maria, oriunda di Migdal Nunaia, in greco Tarichea, un piccolo paese vicino al lago di Galilea, a 5,5 chilometri a nord di Tiberiade. Da lei Gesù aveva cacciato 7 demoni, come a dire tutti i demoni. Questa espressione può significare che Maria sia stata liberata da una possessione diabolica, ma anche che sia stata guarita da una malattia fisica o spirituale. I Vangeli sinottici la citano come la prima di un gruppo di donne che assistettero da lontano alla crocifissione di Gesù e che si fermarono sedute di fronte al sepolcro mentre seppellivano Gesù. Riferiscono anche che all'alba del giorno dopo Maria Maddalena e altre donne tornarono al sepolcro per ungere il corpo di Gesù con gli aromi che avevano comprato e che un giovane, un angelo secondo Matteo, le informò che Gesù era resuscitato e disse loro di andare a comunicarlo ai discepoli. San Giovanni riporta le stesse informazioni con piccole varianti. Maria Maddalena era vicina alla Vergine Maria ai piedi della croce. Dopo il sabato, quando era ancora buio, si avvicinò al sepolcro, vide la pietra spostata e corse a dirlo a Pietro, pensando che qualcuno avesse rubato il corpo di Gesù. Di ritorno al sepolcro si fermò a piangere e incontrò Gesù resuscitato che la incaricò di annunciare ai discepoli il suo ritorno al Padre. L'onore e la gloria di Maria Maddalena hanno origine dal fatto che fu la prima a ricevere la missione di proclamare la resurrezione del Signore. Per l'essenzialità degli elementi che appaiono nei Vangeli, la pietà cristiana e l'esegesi di alcuni autori hanno nei secoli portato a identificare Maria Maddalena con altre donne che compaiono nei Vangeli. A partire dal VI e VII secolo nella Chiesa latina si tende a identificare Maria Maddalena con la donna peccatrice che in Galilea, a casa di Simone il fariseo, bagnò i piedi di Gesù con le sue lacrime e li cosparse di olio profumato. D'altra parte, alcuni padri e scrittori ecclesiastici avevano già identificato questa donna peccatrice con Maria, la sorella di Lazzaro, che in Betania unse con un profumo il capo di Gesù. Matteo e Marco, nel passaggio parallelo, non citano il nome di Maria, ma dicono che fu una donna e che l'unzione ebbe luogo in casa di Simone il lebbroso. Come conseguenza, dovuta in buona parte a San Gregorio Magno, in Occidente si estese l'idea che le tre Marie erano la stessa persona. Tuttavia, i dati evangelici non portano necessariamente alla conclusione che si possa identificare Maria Maddalena con la Maria che unse Gesù a Betania, che invece, con tutta probabilità, fu la sorella di Lazzaro, e neppure permettono di dedurre che sia la peccatrice che secondo Luca unse Gesù. È facile però capire i motivi di questa progressiva identificazione, tenendo presente la successione degli avvenimenti come vengono descritti da Luca e se si guardano gli eventi medesimi da un punto di vista spirituale. In primo luogo, l'unzione di Gesù da parte di questa donna peccatrice è collocata immediatamente prima del passo in cui viene detto che tra le donne che assistevano Gesù c'era Maria di Magdala, da cui aveva scacciato sette demoni, cosa che potrebbe essere interpretata come la purificazione da una vita peccaminosa. In secondo luogo, le due donne si caratterizzano per il loro grande amore. Gesù loda la peccatrice della Galilea. Le sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. E Maria Maddalena manifesta il suo amore nella ricerca del corpo del suo maestro e nell'incontro con il risorto. Per questo, anche se si trattasse della stessa donna, il suo passato di peccatrice non è una macchia indelebile. Pietro fu infedele a Gesù e Paolo un persecutore dei cristiani. La loro grandezza non risiede nella loro impeccabilità, ma nel loro amore. La tradizione della Chiesa, per il ruolo svolto da Maria di Magdala nella vita di Gesù, ha avuto fin dall'inizio una particolare attenzione per la sua persona. Padri della Chiesa, scrittori, ecclesiastici ed altri autori hanno esaltato il ruolo di Maria come discepola del Signore e annunciatrice del Vangelo. Per questo è stata chiamata in Oriente Isapostolos, uguale a un apostolo, e in Occidente Apostola Apostolorum, apostola di apostoli. In Oriente c'è una tradizione che dice che è stata sepolta a Efeso e che le sue reliquie sono state portate a Costantinopoli nel secolo IX. Alcuni gruppi marginali della primitiva Chiesa ricorsero alla figura di Maria come una risorsa per garantire la validità delle proprie dottrine. Questi gruppi furono fondamentalmente sette gnostiche, i cui scritti raccolgono presunte rivelazioni segrete di Gesù dopo la risurrezione ad alcuni personaggi del Nuovo Testamento. Sono racconti fittizi che non hanno alcun fondamento storico. Nella letteratura cristiana medievale, a partire dal secolo X, sono state diffuse notizie di carattere leggendario che esaltavano la sua figura e che si diffusero soprattutto in Francia. Lì, per esempio, è nata la leggenda che la Maddalena, Lazzaro e alcuni altri, per sottrarsi alla persecuzione contro i cristiani, fuggirono da Gerusalemme a Marsiglia ed evangelizzarono la Provenza. Secondo questa leggenda, Maria sarebbe morta a Aix-en-Provence o, secondo alcune varianti, a Saint-Maximin, e le sue reliquie sarebbero state portate a Vézelay. Nessuno di questi fatti ha fondamento storico.